Un altro giorno perso, immerso nel mio universo. Pazzi dalle gare, resterò sempre diverso. Vivo questa vita per il tempo che ho perso. Passo dopo passo, trovo il mio giusto verso. Ancora perso in una gabbia di maiale. Mettimi sotto perché guidi senza i cazzo di fanali. Rime banali e nuove rime mondiali. Ordine e disordine ed in più nuovi mali. Grigi a pedali, ancora esce chimiche rivali. E ti chiama a casa, rima aliena, chiama Daga. Adesso scusa, busta e mussa la mia musa. Oggi passa, domani si farà, ma basta. Vado a pagare dopo. Dopo foto tutto quanto c'è alla cassa. Resta attento, pronto per la foto in posa. Settimana troia, la domenica va in chiesa. Sforno, rime calde, 2 euro al chilo per la spesa. Parte 2 di un delirio mentale. Parte dalla parte più pazza da legare. Vola come incastro che non riesce ad asciugare. Il flusso di parole che ti porta a delirare. Parte poi chi riferma gamba tesa. Alieni da legare in alto, alieni rima appesa. Parte 2, parte tutto bloccato. Veniamo a sporcare il tuo cervello ben lavato. Yo, parte seconda ad alieno ad alieni. A dare un senso alle parole c'è da stare scemi. Come fumo che una volta erano solo semi. Alla deriva in questo mare senza vele, senza remi. Vola sulle accuse tipo stormo di gabbiani. Schizzano frammenti stile scontro tra titani. Mentre c'è chi va più a fondo del Titanic. Che impasta congetture, menzogne col pasta matic. Matematic, rime basi traspirali. Pazzi da legare che vi riempiono i locali. Da Malibu a Malima, solo in cartolina. Perché in tasca manco i soldi per comprare una cartina. Mission impossible, mission all'impossible. Sfogliamo la tua mente come Hannibal, The Cannibal. Quando rima aliena viene fuori col 3D. Dallo schermo del tuo cellulare o dalla tua TV. Parte 2 di un delirio mentale. Parte dalla parte più pazza da legare. Vola come incastro che non riesce ad asciugare. Il flusso di parole che ti porta a delirare. Parte poi chi riferma gamba tesa. Alieni da legare in alto, alieni rima appesa. Parte 2, parte tutto bloccato. Veniamo a sporcare il tuo cervello ben lavato. Ma chi siete? Aiuto! Parla al merda! Chi siete? Chi siete?